così ho avuto un pensiero che è molto semplice, ma ci può aiutare. Il pensiero è che mentre leggevo questo lungo Vangelo, molto, molto bello e commovente, di cui non si può perdere nessuna parola, pensavo, guarda un po', questo episodio che è così importante per la nostra fede, che è così importante per la Chiesa, pensate che ecco, è da tanto tempo, da tanti secoli, c'è questa tradizione anche di leggerlo nella Quaresima, diventa una delle tappe del cammino dei catecumeni, no? Anche il Vangelo che abbiamo letto nelle domeniche scorse della Samaritana e del cieco che recupera la vista, del cieco dalla nascita. E pensate, sono tutti brani scritti da Giovanni. E negli altri Vangeli non c'è traccia di questo episodio. Anche degli altri Vangeli che sono, li chiamiamo sinottici, perché con uno sguardo si può vedere la concordanza, no? Di tanti episodi paralleli che sono raccontati magari in modo un po' diverso, ma con una sostanza di racconto. Poi anche loro hanno delle cose che dicono solo loro, delle cose, dei brani che sono esclusivi, no? Di Matteo, di Marco o di Luca. E questo ci aiuta a comprendere che anche nella diversità di ogni evangelista noi comprendiamo, e anche nella sua originalità, e comprendiamo il valore che ha ogni persona per Gesù, il valore che ha anche l'apostolato che compie. E può essere un apostolato, come in questo caso, è assolutamente personale, cioè che veramente solo l'Evangelista del quarto Vangelo, solo San Giovanni ha raccontato della Samaritana, del cieco dalla nascita, di Lazzaro. Non ci sarebbe la Pasqua così com'è, no? Anche senza il suo racconto, i suoi racconti della resurrezione, il colpo di lancio che ferisce Gesù, la Madonna sotto la croce e l'affidamento di ciascuno di noi a Maria insieme con Giovanni, l'apparizione a Maria Maddalena e prima ancora tutti quei racconti dei dialoghi di Gesù con i suoi discepoli nell'ultima cena, il comandamento nuovo dell'amore. In misura minore potremmo dire le stesse cose degli altri evangelisti. Non sarebbe il Natale così come lo viviamo senza i racconti dell'infanzia di San Luca e quelli di San Matteo. E la conversione sulla croce del buon ladrone è solo di San Luca, così come il racconto dettagliato dell'incontro con Gesù sulla via di Emmaus, tanto che si può pensare che uno dei due discepoli, come una tradizione esistente, sia proprio lui, Luca. E fra l'altro è anche bello pensare che alcuni di questi racconti, pensate a quello della Samaritana, siano nati proprio dal protagonista, lei che racconta. È difficile pensare che che Gesù abbia svelato quel dialogo, ma invece è bello e molto normale pensare che lei a un certo punto lo abbia rivelato. Leggendo, cioè riflettendo su queste cose, sul fatto che, fra l'altro, non è solo per i quattro evangelisti un fatto di dire episodi che l'altro non conosce o sceglie di non scrivere, ma è proprio una visione di Gesù. Anche, dicono gli esperti, una particolare teologia che ciascun evangelista ha, un particolare, ecco, anche fine, il fine dell'opera, no? Un obiettivo. E allora leggendo, cioè pensando a queste cose, mi è tornato alla mente quello che dice Benedetto XVI di Giovanni Paolo II, quando nell'intervista, così, nella prima intervista che rilascia da quando è Papa Emerito, pubblicata in un libro di interviste, no, che conosciamo, a un certo punto l'intervistatore gli chiede: fra le molte encicliche di Giovanni Paolo II, quale considera la più importante? E lui risponde così: penso che siano tre le encicliche di particolare importanza. In primo luogo vorrei menzionare la Redentor Hominis, la prima enciclica del Papa, in cui egli ha offerto la sua personale sintesi della fede cristiana. Questo testo è una sorta di compendio del suo personale confronto e incontro con la fede, e presenta così una visione complessiva della logica del cristianesimo. Come risposta alla domanda su come oggi si possa essere cristiani e credere da cattolici, questo testo totalmente personale e insieme totalmente ecclesiale può essere di grande aiuto a tutti quelli che sono in ricerca. E mi sembrava molto, molto suggestivo, no, che il Papa dica: in quell'enciclica c'è la sua personale sintesi della fede cristiana. E certo, in qualche misura, così da pubblicare, evidentemente avere una sintesi personale della fede cristiana, forse, ecco, personaggi che hanno una preparazione teologica o un compito nella Chiesa possono essere chiamati così ad esporla in modo autorevole, però ho pensato che ciascuno di noi può avere una propria personale sintesi, basta che sia nell'ambito dell'ortodossia. E così come mi è tornato alla mente quello che un aneddoto, un episodio di San José Maria, no? Che raccontava a qualcuno che era così vicino a lui in quei momenti. Ricordate che negli anni 60 avevano la possibilità di vedere anche, ecco, dei film anche molto recenti, e senz'altro li sceglievano per farlo riposare un po' la domenica, no? E poi lui invitava altri a vedere con lui quel film. In fondo era la stessa cosa che aveva chiesto Paolo VI a Don Francesco Angelicchio, no? Appena eletto Papa, e lo fece, che lo chiamò, lui stava cenando, no? In via Orsini, e quindi si precipitò all'appartamento pontificio perché il Papa voleva parlargli, e gli chiese, siccome lo conosceva da prima, dagli anni di Milano, e sapeva che aveva quell'incarico, no, nel Centro Cattolico Cinematografico, e quindi aveva conoscenza di tanti film che uscivano, e gli chiese di scegliere per lui qualche film, perché lui non voleva, diventato papa, chiudere questa finestra sulla vita del mondo, sulla cultura. E però diceva, siccome il papa non ha molto tempo, allora che mi scelga lei qualcosa che vale la pena vedere. Così poi lui raccontava come ha visto parecchi film insieme con Paolo VI nella saletta e col suo segretario e un altro grande amico di Paolo VI, no? Il Don Bevilacqua, che poi diventò cardinale. E così Don Francesco Angeli, che offriva anche a San José Maria, a nostro padre, dei filmati, e una volta erano un po' titubanti, no? Quelli che avevano il compito di scegliere i film, però decisero di fargli vedere un film su Gesù, no, non so quale, no? E sono tanti quelli che anche uscivano allora, e raccontano che lui, dopo, in fondo, ecco, pochi minuti o poco tempo, quando già si vedeva Gesù, ecco, adulto, che parlava, che si muoveva, e disse: questo non è il mio Gesù, e allora lasciò la sala così in silenzio, senza particolare solennità. Però, detto in positivo, che bello che ciascuno possa avere il suo Gesù, sempre nell'ambito della verità del Vangelo, della verità della fede cristiana, ecco, rivelata, e che la Chiesa ci propone a credere, si capisce, no? D'altra parte, forse questo può essere il senso profondo, o uno dei significati profondi, del fatto che nei Vangeli non c'è un ritratto, come dire, definitivo e incontrovertibile di Gesù. Non è ritrattata la sua figura fisica, per esempio, il tono della sua voce, e la qualità del suo sguardo, anche se noi ci immaginiamo queste caratteristiche di Gesù come particolarmente belle e affascinanti. Questo sì, si nota dai Vangeli, ma in qualche misura ciascuno di noi può, anzi in qualche misura deve, noi eravamo incitati, no? da nostro padre ad avere la nostra vita interiore personale, e ciascuno di voi deve avere la sua vita interiore personale, deve leggere il Vangelo in modo tale da poterlo vedere come in un film, diceva lui. Non era contrario al fatto che ci fossero i film su Gesù, però in quel caso non corrispondeva alla sua visione su Gesù, e quindi in qualche modo lo distraeva, lo disturbava. Il mio Gesù, nel leggere il Vangelo ciascuno di noi trova il suo Gesù, mi veniva in mente anche una seconda riflessione su questo, sul Vangelo di Lazzaro. All'inizio, quando uno legge le prime parole, può sembrare che Giovanni metta più in evidenza Maria rispetto a Marta. Siccome eravamo abituati a leggere San Luca, dove appare che la casa è di Marta e poi c'è anche Maria, invece Giovanni dice: il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, all'inizio, e poi racconta chi è Maria, come se fosse stato lui particolarmente colpito da quell'episodio del cospargere Gesù di profumo, lo mediteremo fra pochi giorni, no? Avvicinandoci alla Pasqua, e forse rifletteremo sul fatto che quel profumo gli è rimasto attaccato agli abiti e lo ha accompagnato anche durante la Passione. Forse anche c'era ancora sui suoi capelli quando stava sulla croce, quindi l'amore di Maria lo ha confortato anche in quei luoghi dove non c'era certo profumo. Allora Maria era quella che cosparse il profumo del Signore, gli asciugò i piedi con i suoi capelli, suo fratello Lazzaro era malato, però subito dopo cambia di nuovo il rapporto, viene prima Marta di Maria, quando dice Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. E poi più avanti è Marta, i giudei sono venuti da Marta e Maria e racconta l'incontro di Marta con Gesù, Maria invece è seduta in casa. E poi in secondo luogo quello di Maria, anche se l'incontro di Maria, che non abbiamo letto prima, che voi conoscete bene, è più immediato, colpisce di più Gesù dal punto di vista perlomeno emotivo, forse perché arriva come secondo, forse perché vede il pianto di Maria, e noi amiamo molto questo brano del Vangelo perché si vede la pienezza dell'umanità di Gesù. E poi dopo di nuovo si scambiano i ruoli, le cita in modo, a volte prima Maria, a volte prima Marta, anche quando parla dei giudei che erano venuti a trovare Maria. I giudei stanno con Maria. Quindi io penso che da questo Vangelo e anche dal Vangelo successivo non si può trarre una predilezione per una delle due sorelle. E questo anche ci dice che Gesù ama infinitamente ciascuno di noi così come noi siamo, anche perché la nostra natura è stata così creata da Lui. Ama Marta con le sue caratteristiche e ama Maria con le sue così diverse tra di loro. E fra l'altro anche questo punto è molto importante da trarre da questo Vangelo, come è da tenere nella mente, da ricordare lungo la giornata quando ne abbiamo più bisogno. Queste brevissime parole del Vangelo di Giovanni, che dice Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Nella traduzione precedente, quella sì che si usava fino a qualche anno fa e che si leggeva anche in chiesa, nella messa, nella liturgia, si dice Gesù voleva molto bene a Marta, a Maria. No, qui dice Marta, a sua sorella e a Lazzaro. E adesso invece la traduzione è amava. E io sono contento che i traduttori abbiano preferito questa traduzione più letterale rispetto all'originale, e che poi richiama tutto il discorso sull'amore che Giovanni farà più avanti, che Gesù farà più avanti. No? Il comandamento dell'amore, amatevi come io vi ho amato. E questo amore di Gesù distribuito, no? Anche questo ci dice di un amore totale e per ciascuno. Anche per questo non dava adito ad equivoci. Nessuno ha pensato che amava Marta o Maria con un amore esclusivo, quello tipico di chi vuole sposare una donna. No? E fra l'altro il fatto che amasse anche tanto quello che tu ami è Lazzaro, no? Quindi l'amore grande per le donne, per gli uomini, è l'amore di Dio che poi si diffonde ai suoi discepoli. Quando più avanti, quando chiamano, quando le sorelle con sapienza dicono quello che tu ami è malato. Poi Gesù quando svela, lo abbiamo letto, quello che sta succedendo a Lazzaro, dice Lazzaro, il nostro amico si è addormentato. Per cui questo Gesù, questo amore così grande che tu hai per noi, non solo non è esclusivo solo di una persona, ma è per tutti, un amore infinito, no? E se tu, diceva Gesù a una santa, no, potessi pensare, sapere quanto io la amo, quella tua amica che, di cui sei preoccupata, non potresti pensare ad altro per il resto della tua vita. E allora questa rivelazione sull'amore è diffusa anche ai discepoli, è passata ai discepoli, e anche è il nostro amico. Allora, queste sono le osservazioni, le riflessioni che mi venivano in mente ieri durante la lettura del Vangelo durante la Messa, e che ho voluto passarvi perché possano contribuire a proseguire la vostra orazione personale su questo Vangelo e anche sugli altri Vangeli che ci verranno proposti in questi giorni di preparazione alla Settimana Santa e alla Pasqua. La Madonna, che è sempre presente, anche se nascosta, non sappiamo dov'era, però ci può aiutare a meditare, ad approfondire queste e tante altre verità che il Vangelo